Bentornati su Radio ZM. Buonasera a tutti e tutte. 19.08, oggi è il 27 di agosto e con un ritardo di una settimana decidiamo di fare questa cosa, Gigi. Sì, esatto. Per vari problemi tecnici lavorativi non siamo potuti andare direttamente in onda la settimana scorsa, ma ne approfittiamo e lo facciamo questa sera. E fra poco intervisteremo una mia carissima amica, compagna di università, Valeria, che ci racconta un po' quello che sta succedendo in questo periodo in Bielorussia. Valeria ha i natali bielorussi, la sua famiglia è in vacanza lì e sta seguendo molto attentamente tutto ciò che accade. E quale migliore occasione per poter parlare un po' di questa cosa in radio? E direi, Pica, di mandare una canzoncina e poi iniziamo. Assolutamente, e la canzoncina la andiamo a pescare niente poco di meno che dalla vecchia playlist di Ginnastica per stare d'attesa. Così, sì, a caso. Sì, mi sembra un'ottima idea. Vado a prendere qui e cerco a caso tra la playlist numero 4 un Fela Soul freschissimo, tutto per voi, che mettiamo adesso in onda. Yo. Walk, never fetch it for crime. Walk, who goes there? Yo, it's a squeeze of five fingers, puffin' smoke to the bed. Shining black like Darth Vader caps, they on stairs. While we rockin' it, I rockin' it. Like the little ball inside the spray can. Providing three coats for both child, woman and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall and go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. You got popped like a flick by that rivalry click and win. Ooh, ooh, it ooh, ain't my fault, your ass is on the ass walk. Got your chin touched by my fan who thought you brought harm, you see. I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies, God, just rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can be. Why try? Maceo be getting high, since yeah. Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the pasture. Why? My life filled with that's the thug's love. Huh. That you fast, wrap that ass in the rug is your choice, while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Black faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews oppose current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the UNIversity. Before hit is yo, real. I got niggas in the streets that'll blast your ass for the shine again. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. If you a fat chick, getting your fuck on tonight and go. Ooh, ooh, yo, ooh, put ooh, your hands opposite to the ground. If you're loving that sound, go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. And to my broke niggas on the corner holding me down, go. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh. I swear Tommy gon' get it, he done did me wrong. I had plans to buy more land, plant corn, choice kernels on heat. Work hard like wetback, setbacks, gon' get my ass pee hostile. Drop wallet the beat, top dollar the beat. Uh-huh. Big money's make the big decision. Keep hip hop alive, it's just an intermission. Yeah. Back to the second half of the feature flick, thick stacks of fuck. I rap. Have a name for making paper since paper mache. Now my dollar coins join, cause again for play. While you broke niggas reach drunk much quicker. You don't make enough bread, so for boy your nigga went from God to God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate. And that's half a millionaire. Rap cats talk with no real in there. Sounding like they virtual. This sure to hurt you, yo. But the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Shook all the goodies up from under the tree. Except the CDs and shiny suit rappers and flossing MCs. Fail at taking it to rhyme the game. Put a whack home, get no plan. I hold you need to not get happy with me, or else you don't relax your mind. Let your conscience yo, be free. Yo, where my Wall Street niggas, if you're up in the stands, go. Ooh, ooh, ooh, to my women gotta throw their hands against their punk ass man. Go. Ooh, ooh, ooh, yo. You never been shot inside. Ed eccoci qua. Siamo tornati in compagnia di Gigi e di Valentina che Valeria. Ci risponde. Valeria, che ci risponde direttamente. Tu sei a Berlino adesso, Valeria? Da Berlino, esattamente. Oh. Allora, iniziamo subito questa intervista, racconto. Allora, abbiamo visto che in questo periodo si sono sviluppati delle proteste in Bielorussia e ci piacerebbe capire un po' meglio cosa succede, come si sta sviluppando la situazione, ma vorrei iniziare da un po' indietro nella storia. Quindi la prima domanda che ti faccio è: al crollo dell'Unione Sovietica, come ne è uscita la Bielorussia? È vero che fu una delle repubbliche meno entusiasta di affrontare il nuovo corso? Sì, assolutamente vero. La Bielorussia, l'idea era di rimanere nell'Unione Sovietica, avevano fatto anche un referendum nel 91 appunto sul mantenimento dell'Unione Sovietica, e nonostante si devono prendere le percentuali sempre un po' con le pinze da quelle parti, comunque l'82% si era espresso a favore del rimanere in Unione Sovietica, e infatti la popolazione era fortemente anti-Gorbaciov, fortemente anti-perestroica, e vedevano appunto tutte queste riforme come importate dall'esterno, cioè non erano delle riforme volute, non erano delle riforme prodotte diciamo dalla nomenclatura del partito dentro la Bielorussia, nonostante tra l'altro Chernobyl che c'era stato poco prima, quindi aveva colpito molto, molto duramente la Bielorussia, anche più degli altri paesi. Però fondamentalmente la Bielorussia si poneva contraria sia all'indipendenza dall'Unione Sovietica sia alle riforme economiche, al libero mercato, e però ovviamente poi dopo il tentativo di golpe ai danni di Gorbaciov e tutto ciò che ne è scaturito, non c'era molta scelta, e quindi anche la Bielorussia poi nel 91 si è dichiarata indipendente, e anche se appunto non proprio convintamente, diciamo così, non c'era molta convinzione. Ok, approfittando del fatto che hai citato questa data 91, cioè la data della indipendenza della Bielorussia, ti volevo chiedere, nel 94 come sale al potere Lukashenko? Che tipo di retroterra c'è in quel periodo? Allora, Lukashenko era già era stato diciamo eletto per la prima volta nel 90, quindi prima del crollo dell'Unione Sovietica, prima dell'indipendenza della Bielorussia, era stato eletto all'Assemblea Nazionale del Partito Comunista, e lui arrivava da un passato di era direttore di un savkhoz, quindi di una fattoria collettiva, aveva fatto degli studi di agraria, anche degli studi pedagogici se non sbaglio, e aveva fatto sempre non era mai diciamo venuto agli onori delle cronache prima di essere eletto in quell'anno. Una volta eletto, si pone inizialmente come diciamo a favore della democrazia, a favore del cambiamento, a favore dell'avvento del libero mercato, e si pone molto contro la nomenclatura del Partito Comunista che c'era ai tempi, e man mano acquista visibilità anche perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica una cosa particolare che succede in Bielorussia e non negli altri paesi è quella che non vengono fatte subito delle altre elezioni, si aspetta l'approvazione di una nuova Costituzione, e quindi tra il 91 e il 94, quando poi lui viene eletto, resta comunque al potere il Parlamento eletto ancora ai tempi dell'Unione Sovietica, quindi resta comunque di fatto al potere il Partito Comunista, e molte sessioni di questo Parlamento vengono anche fatte vedere in televisione, e Lukashenko prende spesso parola e diventa in questo modo abbastanza conosciuto, ponendosi come all'inizio come opposizione diciamo, e poi viene messo a capo di una commissione parlamentare, chiamiamola così, per la lotta alla corruzione, e acquista ancora maggiore visibilità, e però ad un certo punto nel 93, quando vede che la popolazione è in realtà contraria appunto a tutto il cambiamento che stava avvenendo, il libero mercato eccetera, decide di fare retromarcia e di presentarsi invece come difensore paladino del socialismo, soprattutto dal punto di vista economico, ma ponendosi sempre contro i poteri forti, diciamo la nomenclatura già esistente, denunciandone la corruzione e basandosi appunto su queste idee per la sua campagna elettorale, quindi mantenere lo status quo, la stabilità, non cercare il cambiamento, non forzare le riforme, fare delle riforme regolari e comunque mantenere un'economia fortemente controllata dallo Stato, però cambiare le forze politiche che erano a capo in Bielorussia, che erano sì, insomma, al potere in Bielorussia dalla fine degli anni 80 e negli anni 90, quindi si pone un po' insomma un 5 stelle, se vogliamo fare un paragone con la politica italiana, quindi antisistema, però non per il cambiamento, per restare un po' più vicini ai valori dell'Unione Sovietica. Si pone anche molto vicino alla Russia in quegli anni, dice appunto che l'obiettivo finale è quello di creare un'unione con la Russia, sia doganale che economica, adottare una moneta comune. E quindi nel 94 si candida su queste basi e ottiene il secondo turno sul 56% dei voti, battendo anche il capo del Partito Comunista che ovviamente si era candidato, e ottenendo un forte successo comunque per quegli anni, anche perché tutto il sistema delle comunicazioni si era creata una forte propaganda statale anti-Lukashenko, insomma quello che sta succedendo oggi è il contrario, quindi si pone come uomo antisistema che riesce a battere il sistema, che riesce a vincere alle elezioni nonostante vari problemi durante le campagne elettorali, e quindi arriva al potere in questo modo. Ok, già devo dirti che è molto interessante quello che ci stai raccontando. Come non mai. Mi viene subito da chiederti quindi se... più o meno, cioè, com'erano i rapporti quindi con la Russia, sia a livello di governo che anche a livello di popolo, cioè proprio delle persone che... Sì, sono sempre stati molto, come nazioni sono sempre state molto unite, e infatti appunto la Bielorussia era anche quella che aveva partecipato, come dicevate anche voi, un po' meno al crollo dell'Unione Sovietica, anche perché a differenza di altri paesi come potevano essere l'Ucraina, il Kazakistan e poi vabbè il Turkmenistan, l'Uzbekistan, in cui erano addirittura musulmani, quindi c'era una forte differenza culturale, c'erano anche delle spinte nazionalistiche che poi hanno portato al crollo dell'Unione Sovietica, in Bielorussia questa cosa non c'era, culturalmente i paesi erano molto simili, e addirittura dopo il crollo dell'Unione Sovietica e con l'elezione di Lukashenko, una delle prime cose che lui fece è stata elevare la lingua russa a lingua di Stato a fianco della lingua bielorussa. E infatti adesso in Bielorussia si parla fondamentalmente russo, il bielorusso lo si studia a scuola, ma a meno che non si faccia una scuola bielorussa, le altre materie te le insegnano in russo, quindi il bielorusso è parlato un po' come un dialetto, e la televisione che c'è adesso comunque è la televisione russa, si ascoltano molti canali radio russi, e quindi da un punto di vista delle popolazioni c'è un forte legame, spesso le persone vanno a lavorare in Russia, c'è comunque un'unione doganale, e ai tempi era prevista appunto anche questa unione economica famigerata per avere una moneta unica, di cui si parlava anche quando io ero piccola, mi ricordo, che non è mai successa, è rimasta sempre questa cosa che prima o poi si doveva fare, ma non è mai stata fatta, anche perché dopo i primi anni in cui c'era Yeltsin e Lukashenko, con Yeltsin aveva un rapporto quasi alla pari, anche perché la situazione in Russia era abbastanza problematica e quella in Bielorussia invece sembrava abbastanza stabile, con Putin invece non ha avuto diciamo, altrettanto vita facile, anzi Putin si è subito posto come uomo forte, quindi come quello che doveva avere un po' più il potere tra i due. Ovviamente Lukashenko questa cosa non l'ha mai particolarmente apprezzata, e quindi all'inizio degli anni 2000 hanno fatto una dichiarazione in cui hanno detto che questa cosa della valuta unica veniva, diciamo, abbandonata, però hanno sempre continuato a cooperare da un punto di vista doganale, a scambio delle merci e soprattutto per il gas, ovviamente, perché la Russia ha sempre venduto gas alla Bielorussia a prezzi molto ridotti rispetto a quelli con cui lo fornisce all'Europa e ad altre parti del mondo, anche perché ci sono dei gasdotti che passano per la Bielorussia per arrivare all'enclave di Kaliningrad, che è un po' sopra, e quindi c'è comunque un legame molto forte da svariati punti di vista, quindi diciamo che anche in questo caso l'ingerenza della Russia è abbastanza chiara, evidente, sicuramente ci sarà, perché la Russia ha molti molti interessi in Bielorussia e il popolo bielorusso non ha interessi contrari, diciamo, a quelli della Russia. La differenza con l'Ucraina è anche questa, che quello che sta succedendo in Bielorussia adesso non ha per niente delle connotazioni geopolitiche. Forse le sta assumendo man mano, perché Putin sta fatto delle dichiarazioni, insomma, che non sono particolarmente piaciute alle persone che stanno protestando, quindi forse le posizioni si stanno un po' allontanando, ma inizialmente, anzi, l'opposizione bielorussa era accusata dallo stesso Lukashenko di essere troppo a favore della Russia e Lukashenko stesso diceva che era addirittura, la Tsikhanouskaya, che era la candidata di opposizione, diceva che era addirittura finanziata da forti poteri in Russia, quindi è stato un po' poi uno switch da parte di Lukashenko nelle sue opinioni post elezione, quando invece si è riavvicinato a Putin, dimenticando un po' che negli ultimi anni i loro rapporti non erano del tutto rosei, diciamo così. Perfetto, ma quindi adesso stiamo ancora parlando di un periodo in cui Lukashenko ha comunque un appoggio popolare, tra virgolette. Cioè, quando e come inizia più o meno la crisi di Lukashenko? Ma Lukashenko ha sempre avuto un'opposizione però molto ristretta rispetto alle grandi masse. Già nel 99 sono spariti due oppositori nel nulla e non si è mai saputo che si abbia fatto, anche se comunque tutti quanti se lo possono un po' immaginare. E nel 2000 ci sono state le seconde elezioni presidenziali e c'era un sistema partitico ancora sviluppato ai tempi, però i partiti di opposizione hanno deciso in massa di boicottare le elezioni e forse di poi non è stata, diciamo, una scelta particolarmente felice. E quindi dopo il 2000 il sistema partitico in Bielorussia è cominciato a morire, possiamo dire, perché adesso fondamentalmente partiti non ce ne sono, però l'opposizione tra i cittadini era sempre stata comunque presente, anche se non ai livelli attuali. Attualmente penso l'aumento di quelli che sono contrari a Lukashenko sia dovuto al fatto che sono entrati, diciamo, nel mondo adulto della politica e della vita molti ragazzi giovani che hanno delle esigenze diverse rispetto a quelle che avevano i loro genitori, parenti più adulti negli anni 90. Comunque siamo nel 2020, non più nel 90, quindi l'idea di stabilità che propone Lukashenko alla gente fondamentalmente non interessa più, perché questa stabilità ce l'hanno avuta per 26 anni e come dicono loro, appunto, la stabilità era negli stipendi, che erano stabilmente bassi, e nei prezzi, che salivano stabilmente. C'è stata anche un'inflazione molto forte nel 2012-13, se non sbaglio, in cui le persone hanno perso il 20% dei loro risparmi, più o meno, perché il rublo bielorusso ha perso molto valore. E soprattutto negli ultimi anni c'è stato un cambiamento culturale, perché sono state create molte associazioni, club, teatri indipendenti, musei indipendenti, tutte quelle cose che in Bielorussia mancavano, almeno quando ero piccola io ci andavo, non c'era niente di tutto ciò, cioè la vita dei giovani era molto diversa rispetto a quella che possiamo avere noi in Europa, mentre adesso si sta avvicinando un po' più alla nostra idea di diciamo di vita che può fare un ragazzo, che può cercare altri interessi oltre a quelli offerti dallo Stato, che sono un pochino più standard, e quindi tutti questi ragazzi si sono uniti attorno a dei valori che sono lontani da quelli di Lukashenko, quindi è un'opposizione fortemente spinta, fortemente voluta dalla parte giovane della popolazione, ma è anche molto eterogenea, perché comunque a tutte le manifestazioni vanno anche persone adulte, passiamo dal pensionato al medico, all'attore, agli operai nell'ultimo periodo, quindi penso che il sentimento di Lukashenko stesse crescendo in realtà da molti, molti, molti anni ormai, e che quest'anno è esploso, perché quest'anno, anche grazie a internet e alla possibilità di vedere quello che stava succedendo, le persone hanno effettivamente visto come lui ha ottenuto, tra virgolette, la vittoria alle elezioni, e quindi insomma ne hanno avuto un po', diciamo, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il famoso vaso. Ok, torno un attimo indietro e ti faccio una domanda, sì, chiedendoti proprio tu cosa ne pensi, ma secondo te perché in molti paesi ex sovietici gli uomini al potere cercano di restarci eternamente? Sì, una cosa di cui, quando parlo di queste cose, parlo spesso e cerco di capirle, in effetti. E secondo me in realtà è dovuta sia ovviamente al retroterra, alle esperienze che hanno avuto in quei paesi, quindi sono passati dallo zar, che era un monarca, quindi fondamentalmente sistema autoritario, all'URSS, che non era un paese democratico da come, insomma, intendiamo noi la democrazia oggi. E però secondo me c'era anche il problema vero, è che la popolazione la gente ha paura del cambiamento, perché quando ci sono stati dei cambiamenti in Russia zarista prima, in Unione Sovietica poi, sono sempre stati dei cambiamenti molto dolorosi, con versamento di sangue, quando c'è stata ovviamente la rivoluzione russa, con gli anni a seguire della guerra civile, la carestia. Poi quando è crollata l'URSS ci sono stati gli anni 90, che sono stati veramente pesanti per la popolazione russa, cioè c'era una situazione di povertà forte, e c'erano anche delle situazioni pericolose, soprattutto in Russia, nelle città, c'era molta malavita, possiamo chiamarle, c'erano molte mafie, diciamo. C'era stato comunque un periodo di assestamento lungo e particolarmente doloroso per la popolazione, da cui poi in Russia sono usciti con Putin, in Bielorussia sono usciti con Lukashenko, si sono agganciati un po' a queste figure, e secondo me nella mente di molti c'è questa idea che se cambiamo sarà come negli anni 90, che è la cosa che ripete sempre Lukashenko, o sarà peggio, cioè non vedono la possibilità che ci sia un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Dicono: abbiamo passato gli anni 90 che sono stati molto brutti, ne siamo usciti grazie a questi uomini, quindi perché dovremmo cambiare, tanto poi rischiamo di riavere gli stessi anni 90 e poi di doverne uscire un'altra volta per ritornare alla situazione che abbiamo già ora. Quindi secondo me c'è molta paura verso il cambiamento, non è visto il passaggio di potere, non è visto come una cosa normale come può essere da noi, cioè in Italia c'è un po' spesso, però nei paesi normali, nei paesi democratici, non normali ovviamente, è visto come una cosa normale il cambio di potere ogni 5 anni, ogni 4, ogni 10, se qualcuno fa 2 mandati, mentre in Russia sembra quasi, o in Bielorussia sembra quasi una cosa fuori dal comune. La gente non la vede come una cosa normale, anzi la vede come una cosa strana, del tipo c'è un problema, il paese non è stabile, anche per questa idea. Ok, secondo me per paura che vada male. Ok, ma quindi il paese è compatto contro il presidente, o c'è una parte che è schierata, come capita spesso, tipo le province rispetto alle città? Ma adesso devo dire che da quel che ho visto io, da quel che ho sentito, pongo questo esempio di mia mamma, che adesso lì che magari è interessante, perché sì, comunque vita vera vissuta. Lei mi ha detto che quest'anno lei non ha parlato neanche con una persona che volesse votare a Lukashenko o che l'avesse votato alle elezioni, andando da amici a persone, tassisti, poi hanno fatto lavori in casa, gente che è venuta a lavorare lì in casa, con cui hanno sempre parlato delle elezioni perché era un argomento molto, molto sentito, e lei mi ha detto che non ha incontrato neanche una persona che volesse votare per lui o dopo che avesse votato per lui. Però loro sono a Minsk, quindi uno può dire magari nelle province diverso, però da quel che ho visto, ho sentito io, in realtà anche nelle altre città la protesta contro di lui è abbastanza forte. Quelli che sono a favore di Lukashenko sono le forze dell'ordine, quelli che hanno adesso il potere, quindi le persone che adesso sono in Parlamento, diciamo. Poi ultimamente, per far vedere che anche lui e dei sostenitori stanno organizzando sempre queste manifestazioni di piazza, in cui vengono portati su autobus partecipanti da varie parti della Bielorussia, quindi sono sempre gli stessi che vengono trasferiti su questi bus in varie città per partecipare a queste manifestazioni pro-governative e far vedere, soprattutto perché queste vengono fatte vedere in televisione a differenza di quelle antigovernative, per far vedere che in realtà lui ha il sostegno, che in realtà questo 80% che hanno detto che lui ha preso è effettivamente vero, perché il suo sostegno ce l'ha, e che semplicemente sono persone che serie, che lavorano e che non hanno tempo né voglia di uscire per strada e di provocare disordini e provocare un danno al paese, sono persone tranquille che stanno a casa e sostengono lui delle mura domestiche. Da quello che ho visto io, penso che il sostegno di lui attualmente non superi il 20%, 30% se andiamo larghi, penso che il 30% non lo superi della popolazione. Ok, ma invece ci racconti qualcosa della repressione in corso e come sono esplose le mobilitazioni? Allora, le mobilitazioni sono cominciate prima delle elezioni, dopo che hanno arrestato il candidato che dai sondaggi dipendenti era dato in vantaggio. Precedentemente avevano arrestato già un altro candidato, il famoso blogger marito della Tsikhanouskaya, che è quella che si è candidata successivamente, e dopo che però hanno arrestato Viktor Babarika, che era quest'altro candidato, hanno cominciato insomma a fare un po' di picchetti nelle piazze, un po' di proteste, sono cominciati i primi arresti e poi è successa una cosa importante anche secondo me molti politici in Europa potrebbero prendere esempio, e cioè che le tre persone rimaste all'opposizione, quindi Babarika che era arrestato, la moglie del blogger Tsikhanouskaya che era libera e Valery Tsepkalo, che era l'altro candidato, hanno deciso di unire le loro forze a sostegno di Svetlana Tsikhanouskaya, e quindi hanno cominciato a fare questa campagna elettorale comune, raccogliendo veramente le piazze come in Bielorussia non si era visto mai, cioè non ho mai visto una partecipazione politica particolarmente attiva, anche perché dopo 26 anni con lo stesso presidente uno perde anche un po' l'interesse a partecipare attivamente nella politica del proprio paese, perché tanto grossi cambiamenti non si vedono. Invece c'è stata una partecipazione molto forte e le persone si sono sentite in grado di cambiare qualcosa, perché hanno visto che c'era tanta gente, e quando sono cominciate le elezioni sono cominciati i primi brogli, o almeno questo è quello che hanno documentato gli osservatori indipendenti bielorussi, perché ovviamente quelli dell'OSCE non c'erano, quindi osservatori indipendenti bielorussi accreditati non sono riusciti ad andare nei seggi elettorali perché li chiudevano le porte davanti piuttosto che chiamavano la polizia per cacciarli, però spesso sono rimasti fuori dalle scuole dove avvengono le votazioni a contare le persone che entravano per poi confrontare il numero con il numero affisso a fine giornata all'interno del seggio. E molte volte questi numeri differivano, quindi se l'osservatore esterno contava 30 ingressi nella scuola, la sera il numero dei votanti era 130, ad esempio. E quindi hanno documentato questo tipo di attività. Poi molte persone sono andate a votare ovviamente il giorno il 9, che era il giorno ufficiale delle elezioni, perché in Bielorussia è possibile andare a votare anche i giorni precedenti, che non penso ci sia in Italia. E quindi il 9, quando poi molte persone sono rimaste fuori dalle scuole ad aspettare i risultati, e quando hanno fissato i protocolli in cui molte scuole davano a Lukashenko appunto il 76%, l'80% dei voti, le persone hanno capito che quella sarebbe stata la versione ufficiale, quindi sono scesi tutti quanti per strada. E lì è arrivato subito, prima è arrivata la polizia antisommossa, diciamo, con la parte della polizia che si occupa appunto l'anti-riot police, l'inglese, e il giorno dopo è arrivato anche l'esercito, quindi la situazione è, diciamo, abbastanza degenerata. Sono stati arrestati circa 7.000 manifestanti, arrestati ovviamente senza, portati poi nei centri di detenzione ovviamente senza possibilità di vedere un avvocato, senza un'accusa vera e propria, quindi sono stati tenuti lì da una notte e tre giorni senza alcun tipo di accusa, alcun tipo di processo, quindi sequestro di persona, diciamo. E da lì poi, quindi, le manifestazioni che erano nate contro la falsificazione del voto, secondo i manifestanti, poi si sono anche trasformate in manifestazioni contro la violenza delle forze dell'ordine e del potere che aveva dato ordine alle forze dell'ordine di agire così, e che aveva portato anche l'esercito nelle strade della capitale a tirare granate alla popolazione, quindi non una cosa particolarmente bella, diciamo. Quindi adesso le richieste dei manifestanti sono quelle ovviamente di avere nuove elezioni senza Lukashenko, quindi chiedono delle elezioni oneste in cui il conto dei voti venga fatto in modo trasparente, chiaro e onesto appunto, però chiedono anche che vengano presi dei provvedimenti contro gli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno represso duramente le manifestazioni, cosa che ovviamente non sta accadendo, come si può immaginare. Sì. È vero che, diciamo, per la prima volta si stanno mobilitando anche i lavoratori e le lavoratrici? Sì, e questa è anche un'altra cosa molto figa, secondo me. Stanno puntando molto su un discorso di scioperi, quindi ponendo come base il fatto che la Bielorussia è comunque ancora un paese che poggia fortemente sia sul settore primario, quindi l'agricoltura, che sull'industria, che è una parte importante, soprattutto l'industria pesante, quindi produzione di macchinari per l'agricoltura, trattori, cose di questo genere. E molti lavoratori hanno dichiarato sciopero fino alle dimissioni, diciamo, richiedendo le dimissioni di Lukashenko e delle nuove elezioni. Ovviamente è abbastanza difficile perché sono minacciati di licenziamento. Adesso ad alcuni le hanno dato l'ordine di andare in un'altra città per motivi di lavoro per un mese. Il capo diciamo l'organizzatore dello sciopero nell'industria dei trattori, che è una delle più importanti, è stato appena arrestato e le è andato 10 giorni per organizzazione di meeting non permessi. E quindi la situazione è abbastanza difficile, però sono state anche create molte organizzazioni che raccolgono soldi principalmente in modo da poter aiutare gli scioperanti sia per ciò che riguarda il pagamento delle multe, perché ovviamente quando vengono detenuti magari poi non restano in carcere per 10 giorni, ma gli danno delle multe da pagare ogni volta che vanno a fare un picchetto. E oltre a questo vengono anche raccolti soldi appunto da dare a persone che perdono il proprio lavoro per le posizioni che hanno preso. per le posizioni politiche sono stati licenziati svariate figure anche importanti, e soprattutto c'è anche un forte sostegno popolare verso gli scioperi, quindi la mattina spesso cittadini comuni, insomma, che non lavorano in, questo, in queste aziende, in queste imprese, vanno davanti al, all'ingresso dove vanno gli operai, insomma, a sostenerli, e che è una cosa anche abbastanza, abbastanza interessante. Quindi c'è molta unità da questo punto di vista, e i lavoratori stanno facendo molto bene. Bene, bene, siamo arrivati alla penultima domanda, e ti volevo, ti volevamo chiedere che prospettiva vedi per le proteste e per la Bielorussia. Cioè, tu cosa pensi? Vincerà lo status quo? Farà la fine dell'Ucraina e finirà nell'orbita dell'Occidente con tutte le contraddizioni che si porta dietro? O c'è una speranza di un vero cambiamento rivoluzionario? Allora, io, beh, come si è capito, spero che questa rivoluzione abbia successo. Purtroppo non la vedo come una strada breve, purtroppo uno dei passaggi obbligati, secondo me, è il sostegno della Russia, perché la, cioè il sostegno della Russia nel senso non un sostegno attivo al, al, al movimento di opposizione, quanto una togliere il sostegno a Lukashenko fondamentalmente, quindi mettersi un po' super partes e non intervenire a favore di Lukashenko. Oppure un'altra soluzione che potrebbe portare, diciamo, al prevalere delle forze di opposizione e che all'interno stesso del governo ci siano delle persone che si stiano facendo dei dubbi su, su, sul presidente, e che forse si, si chiedano, spero che ci sia qualcuno, insomma, che si chieda se effettivamente è bene continuare con lui o se effettivamente un cambiamento, è meglio effettuare un cambiamento. La vedo non adesso, cioè adesso si stanno avvicinando gli oppositori, si stanno un po' avvicinando all'Occidente, soprattutto per ciò che riguarda la Polonia e i paesi baltici, che stanno cercando di aiutare l'opposizione, hanno aperto le frontiere per i bielorussi che adesso possono andarci senza visti, quelli appunto perseguitati dal regime, hanno offerto riparo a Svetlana Tsikhanouskaya quando è dovuta andare via dalla Bielorussia, stanno aiutando, e quindi si stanno avvicinando, diciamo, le forze di opposizione si stanno un po' avvicinando a loro, però più la, questo lo vedo più che un desiderio del, dei ragazzi che stanno cercando appunto di buttare giù Lukashenko, più che un desiderio loro lo vedo come una pecca da parte della Russia, perché comunque la popolazione non, non si è allontanata dall'idea di voler restare unita con la Russia, cioè non c'è, non c'è lo stesso, la stessa volontà che c'era in Ucraina di staccarsi. Quindi è più una pecca della Russia che sta seguendo una politica di appoggio a Lukashenko. Se la Russia si, si ponesse super partes, penso che gli oppositori guarderebbero più a est che a ovest. Quindi però, li stanno buttando nelle mani dell'Occidente, diciamo, del, dell'orbita, sì, esatto, NATO. Stanno spingendo un po' lì, e non so se sotto sotto lo stanno facendo apposta per poi poter avere una scusa per intervenire, perché comunque continuano a dire che se ci sarà necessità l'esercito è pronto, la Russia continua a dirlo. Quindi comunque c'è un trattato militare per cui la Russia deve aiutare la Bielorussia nel caso di invasioni dall'estero o cose di questo genere, quindi visto che non penso, beh, oddio, ultimamente che Putin sta raggiungendo livelli particolari, però inizialmente si è sempre posto come uomo di cultura, intelligente, eccetera, e non penso che, sinceramente, non veda che Lukashenko un po' preso la deriva, cioè sono comunque due tipi di dittatori diversi, e mi sembra assurdo che si possa sostenere comunque uno che durante una manifestazione sorvola la folla in elicottero e poi scende dall'elicottero con un Kalashnikov in mano e un giubbotto antiproiettile con a seguito il figlio di 15 anni con Kalashnikov e vestito da militare a 15 anni. Cioè c'è della follia, insomma, dal mio punto di vista, però purtroppo finché lo sostiene la Russia e nessuno all'interno del governo si rivolta, lui continuerà a fare quello che sta facendo, perché comunque lui è convinto di dover restare, di essere il salvatore della patria. Certo. E prima di salutarti e ringraziarti, è consuetudine della nostra radio chiedere di suggerirci una canzone da mandare in onda a fine intervista, e quindi ti chiediamo se ci vuoi suggerire una canzone. Ah, volentieri. Avete tutto. Abbiamo tutto, dal trash a Burzum è tutto. Allora, se avete tutto, io opterei per un Neffa dei vecchi tempi con In Linea, se ce l'avete. Se no, sì. Un Neffa dei vecchi tempi a vostra scelta. Ce l'abbiamo. E mentre andiamo a prendere il vinile, perché tu non lo sai, ma noi qui abbiamo una stanza piena di vinili, no? Abbiamo tutti i vinili, quindi adesso pica il nostro regista, è andato un attimo nella stanza dei vinili a recuperare. E nel frattempo noi abbiamo registrato tutto, quindi fra qualche giorno per avermi dato modo di raccontarvi un po' della situazione. No, grazie a te che sei abbastanza dentro la cosa, quindi ci hai dato un po' un punto di vista, diciamo, anche un po' differente da quello che ci raccontano i nostri media. Sì, comunque protestanti non sono fascisti, cosa che vorrei aggiungere, perché ovviamente c'è la parte che dice che sono tutti fasci, ma non è assolutamente vero, anzi. Ah, ok. No, infatti questa è un'altra curiosità che ti avrei chiesto poi magari in privato, anche questo, perché comunque vedere in Ucraina che c'è dilagare di nazisti così... Sì. Un po' ci abbiamo pensato a se stava succedendo qualcosa di simile, però diciamo anzi, la parte della società un pochino più progressista da un punto di vista di diritti per le comunità per le comunità di minoranza, diciamo, okay. Che ci stanno protestando. Ok. E adesso nel frattempo lui, il nostro cosa, ha recuperato il vinile, quindi ci siamo quasi. E noi ti ringraziamo per l'intervista. Fra qualche giorno ci ascolteremo il podcast sul nostro sito archive.org e dal sito di ZAM, quindi poi ti avviserò, così se hai voglia ti riascolti questa intervista. E ti ringraziamo, ma ti diciamo anche che, dato che questa cosa è in divenire, se tu hai voglia e non ti abbiamo disturbato troppo, magari più avanti ti ricontatteremo per raccontarci come si evolve la situazione. Volentieri, speriamo che ci siano delle evoluzioni positive. Lo speriamo anche noi, speriamo che il popolo bielorusso possa vivere libero da oppressione e scegliere come vivere la propria vita. No. Tu sembra molto difficile, non ti pare. Sì, è sempre... È un concetto ancora in divenire. Come dice un nostro amico molto saggio, la libertà è faticosissima. E quindi in merito, io ho trovato il vinile, quindi Vale, ti ringrazio e anche complimenti per l'esposizione, perché era veramente molto molto lineare. Una piccolissima curiosità, perdonami, ma da parte invece della tua famiglia, che a quanto ho capito è lì, com'è stato il lockdown? Com'è stato il periodo di questi ultimi tempi? Ah, non c'è stato, non c'è stato il coronavirus niente. In Russia non c'è stato. Assolutamente niente. Il lockdown non c'è stato. Hanno vissuto il lockdown dopo le elezioni, quando li hanno staccato internet e avevano paura ad uscire di casa. Sì? Ecco. Ok. Va bene, grazie. Perfetto. Ti abbiamo trovato il disco che ci hai chiesto, quindi ti ringraziamo. Ascoltati il disco, te lo dedichiamo tutto per te. E buona serata. Buona serata, grazie a tutti, Vale. E a tutte. A presto. Ciao. Ciao, ciao. Gigi, grazie. Grazie Pica di averci accompagnato in questo viaggio. Adesso mandiamo la canzone. Neffa tutto per voi, Radio ZM. Buona serata a tutti e tutte. Ciao ciao. Il tipico stile del mistico cico sul ritmico buccia, con il suono che ti dice dove sta il posto giusto. Morde come un chewing gum, questo è hip hop giusto. Dimmi se ti piace, ne ho via più. Ne truffe e messaggeri, questo è il nome della crew. Porto dopo se è la dopa che vuoi, allora è dopa che avrai. Tu puoi sentire le energie, già sai. Sniff neff, un suddito devoto della musica che illumina. Muoviti sul ritmo cica, va da sé. Vibra che ti brucia nelle vene quando sale. Entra nel tuo stereo ed è infiammabile come questo groove che mi accende. Parto con la rima e faccio un giro sulle onde. E la saga di un guaglione continua. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. E solo il pop e pilla bene un tot. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. Apro break, kick e dog, funky, groove in linea. E solo il pop e pilla bene un tot. Apro break, kick e dog, come Kerry D. Funky groove, la ricetta di un b-boy, bella lì. Fatti un giro con la musica di Schneff. Chico, senti a me, non accontentarti di un facsimile. Tra il bene e il male, sempre in viaggio e come vivo. Fondo gli elementi dentro un mix creativo. Tipo spumante brut che ti riempie il flute. Puoi gustarti queste rime che un guaglione caccia sopra il loop. In tre parole faccio stare bene. Se il tuo corpo sa trattare un beat come si conviene, vedi che sereno è, come dice Drupi. Balla con Schneff come Kevin con i lupi. Uso come complici basso e batteria. La mia artiglieria mira le trincee dell'apatia. E mo se vuoi sentire il rap Mr. DJ, metti i messaggeri della dopa freestyle. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. E sono i pop e piglia bene un tot. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. Apro break, kick e dog, funk e groove in linea. Non pensare sia impossibile, inaccessibile, ogni centimetro all'interno del perimetro di questa dope agibile. Finché c'è base c'è il rap, finché c'è il DJ c'è scratch, finché c'è stile c'è il guaglione sniff neff. Rappresento per l'hip hop con la rima in italiano, quindi se il microfono è connesso alla mia mano io non scordo mai l'origine, il modo che io esprimo. So da dove viene questa strada che continuo. Chico nasce giù nel Bronx già da vecchia data. Zulu Nation, Africa Bambata, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash. È il mio gruppo preferito, sono Tribe Called Quest. Nel 95 puoi trovarmi su un beat, i messaggeri sul vinile, cassette e CD. E questo viaggio in dopo arriva fino a qui. Seguimi sul funk e ritornello insieme a Kerry D. Chico Bellamy. Apro break, kick e dog, funk e groove